la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere. Si parla, si parla di acciacchi della vecchiaia. E sì, siamo tornati, 22 e 56 minuti primi. 30 anni. Non si sente, mannaggia, ma abbiamo proprio. Perché sono puntuale. No, certo, eccoci qua. Allora sì, tanti. Iniziamo a settembre, penso che. Forse l'abbiamo fatto qualche volta, ma non sempre. Ricomincia 25 o'clock. Beh, iniziamo con un compleanno che è scoccato proprio domenica scorsa e oggi. Sei riuscito poi a interrompere le trasmissioni di Onda Rossa? No, non sono riuscito a interromperle. Accidenti, io non ho seguito il pomeriggio, vedi, ce ne dispiace a tutti. E, perché appunto volevamo poi così dare in diretta la notizia del compleanno di P38 Punk, che abbiamo qui in studio nella, diciamo, consueta rappresentanza. E c'è pure un altro, un'altra data che più o meno coincide con questo periodo, ma siccome non ce lo ricordiamo esattamente, non sappiamo qual è il giorno, qual è la settimana, che è il 20° invece di 25 o'clock. Noi iniziamo proprio 20 anni fa nel. E non sai il giorno? No, ma non è il 20°, vedi? Ho detto pure una stuviaggine. Io so pure l'ora degli 38. No, non è manco il 20°, devo dare una cosa, il 19°. È il 19, il 2022, è vero, hai ragione. Nel 2022, sì, a settembre 2022 faremo 20 anni, per ora ne abbiamo fatti 19, ecco, quest'anno. E poi c'è un altro compleanno di uno dei redattori qui della trasmissione, che è passato da qualche ora. E diciamo. Oggi è anche il compleanno di Berlusconi, eh? No. Sì? Sì. Sì, sì. Gli famo tanti auguri. No, no, nemmeno. Cioè, anche. No, beh, io anche gli auguro un sacco di belle cose. No, ma al di là degli auguri, cioè, penso che lui doveva cadere nell'oblio, ancora non è successo. Poi, insomma. Erba cattiva. Sì, erba cattiva, ma penso che oggi sia veramente uno dei mali minori, insomma, il gran malasma che c'è adesso l'abbiamo quasi dimenticato e messo da parte. Comunque, oggi è il compleanno di Berlusconi, vedi quante cose. E vabbè, compleanno di P38 Punk da domenica. E però prima dobbiamo fare la presentazione della radio, perché da Radio Onda Rossa trasmettiamo, radio che in qualche maniera dobbiamo tenere in vita, e stiamo cercando di rilanciare anche una serie di appuntamenti, appuntamenti anche di concerti, uscite, cene sociali, eccetera. Si comincia proprio venerdì allo Strike, venerdì sera, con la cena sociale della radio. Il 16 ottobre abbiamo fissato un'altra serata, stiamo preparando ancora gli spot e le pubblicazioni per propagandare la cosa. Si tratta di Wendy e Plutonium Baby, che suoneranno alla Snia Viscosa dalle 21 in poi, cena sociale dalle 20. Insomma, cominciamo a darvi la notizia, poi più in là saprete dove e come venire a incontrare la radio così. Tocca riprendere un po' i fili del discorso, non che li abbiamo mai abbandonati, però insomma si sono un po' sfilacciati in questo periodo. È sempre la cosa più difficile, ricominciare. Ricominciare. Invece appunto Pintrettanto Punk non hanno mai smesso, e vi ricordo, dicevamo, che siamo all'ascolto di Radio Onda Rossa, 87.9 della modulazione di frequenza a banda romana e laziale, 6180401 il numero del conto corrente postale intestale a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 00185, Roma San Lollo 06491750, il recapito telefonico, già ci state chiamando. www.ondarossa.info il sito, ondarossa@ondarossa.info per mandare le vostre comunicazioni alla redazione della radio, 25 o'clock@ondarossa.info per proporci le vostre tracce, come ha fatto ad esempio Patte, l'avete ascoltata prima dell'inizio della trasmissione. Vabbè, il trentennale, ma non mandiamo un disco del trentennale, ma mandiamo l'inno. Vedere il profumo sanguigno del fuoco. Esiste, lo so, Facciamo, chiamiamo Danilo? Ma io Leopoldo Mastelloni no. No. Allora dai, diciamo due parole. Io manderei allora solo musica stasera, per quanto mi riguarda. No, io te devo far riprendere. Però insomma, dai, l'anniversario è importante. L'anniversario, sì. Poi a Radio Onda Rossa, che tu lo sai, c'è la tradizione, certo, che la prima copia del disco dal 91. E certo, all'epoca era la cassetta. La cassetta e deve andare da queste frequenze. E trentennale che ha richiesto già forse avevamo anticipato qualcosa in una precedente telefonata in quel d'agosto, lo ripetiamo per chi avesse già avuto modo di ascoltare, però raccontaci un po' l'idea di questo disco di 9 tracce. Allora, il discorso è che, come al solito, con i nostri tempi, che sono tempi sovietici, abbiamo deciso di fare questo disco e 30 anni, chiamiamo un po' d'amici e facciamo fai cori, diciamo. Amici di strada, di percorso, così. Però amici di percorso sono tutti amici che suonano. Quindi c'è chi sta cosa dei cori andava un po' strettina. Quindi alla fine dal coro si è passati a faccio l'intervento, faccio qualcosa. Come si dice, gli dai un dito e se prendono tutto. E se prendono tutto il disco. Okay. E così noi già siamo disorganizzati per noi, organizza altre 4-5 persone che non è che hanno proprio disciplinate. Assolutamente. È stato un lavorone, anche perché poi questo è il primo disco dove rompiamo la tradizione da 30 anni dei 7 pezzi. Mm-hmm. Sono 9 pezzi, praticamente tranne uno tutti inediti. Uno non ci piaceva come era venuto, l'abbiamo deciso di risuonare, non dico neanche quale, però ci piace di più così, quindi questa è quella buona. E ci ha fatto piacere. Andiamo col primo e poi presentiamo via via gli ospiti, direi. Va, che è così. Allora, la prima traccia, se non sbaglio, giusto? Sì. Da capo, però già la conoscete, eh? Questa è già andata tante tante volte da queste frequenze. Uscita come singolo? Uscita come singolo. Cavate marionette, gente per bene, servili sindacati, popolo di merda, puttana dei padroni! Pronto, ci sei? Pronto? Ciao! Aspetta, aspetta, aspetta, che è partito tutto qua, vai, ci sei? Danilo Fatur, in diretta Onda Rossa. Marco, vai tu, dai. Aspetta, eccolo, vai. Adesso ti parla Marco. Ciao Danilo, qui c'è anche GP che ti saluta. Come stai, anzitutto? Beh, bene, bene, dai, sono tornato dalla Germania, sabato ero a fare un concerto vicino a Dortmund, Münster. Parla più forte e te si sente poco? No, no, più o meno si sente, dai. Com'è andato? Intanto com'è andato il concerto? Il concerto bene, insomma siamo riusciti a tornare a casa, dai. Questo è già un successone, che siete riusciti a tornare a casa con gli Zug, sì. Mi raccomando, salutameli, che ho di loro un ricordo di un bellissimo concerto fatto insieme al Fanfulla. E insomma, in qualche modo, o fisicamente o per telefono, ti portiamo sempre a Roma. Io amo Roma, dai, amo la musica punk, amo un po', diciamo, la scena così punk rock italiana. Spero che ami pure la cucina, che quest'estate l'abbiamo fatto provare a Roma, al ristorante. Beh, sì, sì. Sei rimasto soddisfatto. Ascolta, questa partecipazione insomma al trentennale dei V38 Punk, ormai ecco all'età nostra parliamo di lustri, di decenni, anche una band giovane forse per te, come poteva essere il V38 Punk, ha fatto 30 anni, quindi che esperienza è stata insomma venire appunto a Roma ad aiutare questi ragazzi nella produzione del loro disco dei 30 anni? Beh, per me è stato un piacere, perché 30 anni per una band non sono pochi. Parlo dell'esperienza CGP, che siamo, io sono stato con i CGP 6 anni più o meno, e vedere diciamo dei nipotini dei CGP continuare quel, diciamo, quel percorso di punk filosovietico, di impegno anche sociale, fa molto piacere partecipare a una cosa del genere. E poi siamo diventati amici negli anni, cioè ci conosciamo ormai da, non so, qualche, forse più di 10 anni con i P38, ci siamo trovati in giro. Sì, 2009 è la prima volta che ci siamo conosciuti. Del? 2009. 2009, quindi gli anni passano e ci siamo conosciuti un po' in giro a fare concerti assieme, quindi piano piano è nata un'amicizia e per me è stato molto piacevole partecipare a questa cosa, a questi 30 anni dei P38 Punk. Come ti è riuscito insomma, o comunque come ti sei trovato a suonare con una band nuovamente, appunto, che poi in realtà vabbè suonare sempre in sala prove, insomma sempre in sala di incisione, però insomma suonare con una band che appunto sta tutta lì, poi alla fine che si registra una traccia dietro l'altra proprio in studio, com'è stata la storia insomma dopo tanta elettronica, tante post produzioni eccetera? Sì, beh, è stata una cosa molto rapida perché avevamo poco tempo a disposizione, ma è stato piacevole risentire quei suoni proprio suonati da una band punk, ecco, più vivi, più reali. L'elettronica, sai, è un po' più fredda, un po' più sintetica, mentre così il punk rock dei P38 a me piace molto, perché così è un po', diciamo, è molto antico ma allo stesso tempo è così moderno, perché il punk rock rimane sempre una buona musica, soprattutto dal vivo. E niente, è stato molto piacevole in studio, sì sì. Che poi in realtà con Danilo ci abbiamo diviso il palco sia con le rispettive realtà, ma in realtà io mi ricordo quando abbiamo suonato a Modena al concertone antifascista, io gli faccio così: Danilo, ma mo facciamo sparaiuri, viettela a fare su con noi sul palco. Non se l'è fatto ripetere due volte. È stata la prima volta che abbiamo avuto Danilo Fatur sul palco con noi. Poi a dicembre del 2019, prima del Covid, cazzo, facciamo tummenti, gli dico vieni sul palco, e lui mi fa: che devo fare? Fare artista del popolo. Ascolta, ma forse questa però è la parte più bella, al di là del proprio dello studio, del sudore in qualche maniera anche che lì si può produrre appunto con quel tipo di suoni che te prima descrivevi, invece appunto poi salire sul palco è ancora forse la cosa che dà più emozione, più senso di essere vivi, insomma di poter dire qualcosa, di poter esserci per davvero, non virtualmente su qualche social network. Sì, per me io rimango legato, siccome non sono sui social io, cioè magari a me sono rimasto legato, cioè è meglio fare un live dal vivo piuttosto che, non so, tutti i giorni stare lì sui social a confrontarsi, a cercare anche ad avvilirsi alle volte, no? sì, cioè anche i social è un po' come l'elettronica, è un circuito abbastanza freddo in cui ognuno da casa sua, dalla sua situazione cerca di dialogare con altre situazioni, però è sempre un'immagine, un così è metafisico. Mentre il live, la serata antifascista, che non so, anche il concerto del Fanzilla o in altre situazioni, come è stato sabato sera in Germania, è sempre bello perché vedi poi l'artista nella sua, diciamo, identità più forte. Ascolta, in Germania hanno visto che appunto ci puoi raccontare questa esperienza fresca, si è già ricominciato con i live in qualche maniera, in qualche formula, in qualche modo, e qui in Italia invece ancora poco e nulla? Sì, penso che in Germania mi è sembrato così, noi abbiamo suonato in un centro sociale multimediale, cioè c'erano... Cioè, il nome si chiama Sputnik a Munster. Ci sono tanti, sai, piccoli localini sempre all'interno di questo centro sociale abbastanza grosso, e abbiamo partecipato assieme a, non so, The Last Days of Jesus, che è un gruppo di Bratislava, e poi c'era un gruppo francese di cui non ricordo il nome, forse si chiamava Doctors. Qui c'era un duetto di ragazze che facevano le DJ, musica elettronica con la vocalist, e un paio di gruppi punk, diciamo, tedeschi, non male, ecco, quindi c'era una bella grigliata musicale, e bello perché poi c'era un casino di punk, di dark, quelle panchettoni con delle creste incredibili, e poi c'è stato l'anno ballato tutta la notte su questa dark techno, punk techno, insomma, elettro punk. Sì. È stato molto piacevole perché mi sembra che in Germania siano ripartiti un po' più decisi, ecco, come live. Senti, in questo anno hai avuto modo, oltre ovviamente alla partecipazione con i P38, in questo anno e mezzo di così pausa, di esprimerti in qualche forma, in qualche modo, in studio, eccetera? Beh, guarda, diciamo che dal concerto del Fanfulla, poi con gli Zug abbiamo fatto un'altra seratina a Firenze, ma... diciamo che sì, abbiamo suonato prima di andare in Germania all'Emerson, che è un centro sociale di Firenze. Sì. Ma più che altro mi sono messo giù a scrivere una specie di libro di poesie, di memorie, così, dell'artista del popolo, che sono in contatto con la fuorilinea casa editrice lì di Monterotondo di Roma. Speriamo che vada in porto tutto bene, eccetera. Va bene, quindi attendiamo notizie della pubblicazione ufficiale e poi magari avremo modo anche di fare una presentazione in radio, se tu sei d'accordo. Molto volentieri. Va bene. Vabbè, okay. Insomma, non hai perso tempo, malgrado appunto i fermi più o meno, diciamo, decisi. Sì, come tanti artisti, tutti, certo. Ho cercato di riempire un po' il vuoto di questo anno e mezzo di Covid, di chiusura, eccetera, eccetera. Anche per questo che ho partecipato molto volentieri con Vietnam Punk e Notav al trentennale dei P38. Benissimo, adesso fra poco avremo modo di ascoltare. Stiamo pian piano, così come in una partita a poker, tirando fuori tutte le carte di questo disco. E non so, Marco, te hai qualche altra domanda da fare a Danilo? Beh, Danilo, io l'ho tempestato di domande quando lo conobbi nel 2009. Ora è un amico. E con un amico si parla, si chiede come stai, che fai, ma cioè c'è sempre il profondo rispetto per tutto ciò che Danilo è, ma c'è anche l'affetto e anche la bellezza di dire vabbè, mo alzo il telefono e faccio una telefonata. rispetto a 10-15 anni fa, quando comunque Danilo era quello dei CCCP, certo. Oggi è un amico con cui ci fai un disco insieme ed è stato bellissimo. Va bene Danilo, allora dai, okay. ti ringraziamo a nome di tutti e appunto teniamoci in contatto, perché avremo modo di risentirci, dai, in va qualche bene, modo. Saluti a tutta la radio, grazie. E a tutta la band IP38, ancora grazie, ciao Marco. Ciao Danilo. Ci sentiamo presto, ciao. Ciao, a presto, grazie. Ciao. Il cancro che dilaga, invalida nazione, sono affitto a caos, pozzo ma infezione. Il cancro che dilaga, il male di una nazione, sono affitto a caos. E qui è partito vero in fuorigioco, vabbè, sì, dai. Qui è l'altro asso. Sì. E noi facciamo un mix ardito. E quindi Marco, la sesta traccia. Beh, dal disco, non abbiamo detto il titolo. Il titolo è Il Mondo Nuovo, giusto, è Il Mondo Nuovo. Il Mondo Nuovo, 30 dal romanzo anni di Aldous Huxley. Vedi, equitazioni colte, ma vabbè. Quindi sesta traccia che si chiama? Notave, che per un vecchio panchettone come Danilo è un omaggio anche agli Stooges. Benissimo. E di nuovo in linea, Radio Onda Rossa, in diretta, 87.9 della modulazione di frequenza, 23.28 minuti, abbiamo sentito Danilo Fatur, che ha partecipato a due tracce, no? A ben due tracce. E vabbè, quando sono nate queste tracce, nel senso che sono nate proprio, ma ti ripeto, fatte apposta per lui, nel senso proprio pensate, sì, apposta per per Danilo. Ma in realtà, sempre come con tutti quanti, Danilo, ti va di fare, stiamo facendo il disco del trentennale, ti va di fare un coro? Sì, sì. E poi non sappiamo come è arrivato il pezzo, e poi non sappiamo come è la moltiplicazione dei pani e dei pezzi. I pezzi sono diventati due. Sono diventati due, quindi io a sto punto me lo ascolterei. Vai con Vietnam Punk. Che sarebbe? La 9. La numero 9, quindi intanto ce la prepariamo. Abbiamo preparato peraltro una scaletta lunghissima. Non so, non solo appunto dei V38, che sicuramente cercheremo di mandare il più possibile questa sera. Ci avevamo un sacco di altre cose che ti erano venute in mente. Da mettere a colore. Leopoldo Mastelloni forever. No, Leopoldo Mastelloni è bannato. Però diciamo domattina dovremmo andare a lavorare tutti e due, credo. No, tu vai a lavorare. Io sì. Te vai a lavorare presto. Quindi vediamo fino a che la resistenza umana ce lo concede. Ci sentiamo tutto, dai. Vai. Come on. Francesco dice che l'armata rossa piange. Radio Mosca dice che la stella rossa piange. Radio Mosca dice che la bocca buona piange. Radio Mosca dice che il partito piange. Questo è una vecchia cosa, remix tra Band Punk, Danilo Fatur, Onda Rossa 87.9, mentre presentiamo il lavoro del trentennale dei P38, Punk. Crollano le categorie, crollano le categorie. Mi sono obiettivo, l'obiettivo è la vita. Allora, e qui i vecchi il 38 Bank, no, i vecchi fans, volevo dire, ma non si tratta di fans, insomma, anzi, i vecchi conoscitori, i vecchi ascoltatori, i vecchi pogatori dei P38 avranno riconosciuto senz'altro la formazione originale. Sì, perché qui com'è andata, insomma, la qui cosa? Sempre telefono a Mauro, con cui ho un bel rapporto, cioè ci continuiamo a sentire, che è stato il nostro primo batterista. E poi ha fatto il suo percorso con i Colonna Infame e Bloody Riot, e gli faccio: sai amore, stiamo a fare il disco del trentennale, ti va di fare un coro? Io ci provo sempre col coro. E lui mi fa: ma gli faccio proprio un pezzo, vabbè, un altro. E a sto punto mi dice: ma cerchiamo Esterino. Esterino non fece una partecipazione con noi in Vittime e Carnefici nel 2008, poi purtroppo l'avevo perso di vista, non c'avevo manco più il numero. Quindi abbiamo fatto però. No, abbiamo fatto praticamente un lavoro di intelligence per le sale prove di Roma, fino a che non abbiamo beccato una dove andava a provare lui e ci siamo fatti dare il numero. Ok. Io gli mando un messaggio e faccio: Esterino, senti, Marco, Marco, stiamo facendo il disco del trentennale, sempre, ti va di fare un coro? C'è anche Mauro. E mi fa: beh, ma facciamo un pezzo tutti insieme. E così è andata. È stata un'emozione enorme. Quella che gli americani chiamano le reunion, no? Le riunioni, sì. Sì, non, sì. Esiste la parola italiana. Sì, sì. Sono contro, io dico ancora, sì, autoscatto, certo, invece di selfie. Quindi, certo, e uso i congiuntivi. Quindi avete fatto una riunione. Abbiamo fatto una riunione. Emozione? Io mi sono commosso. Quando ho visto. È stato, cioè, non so come dirlo, quando li ho visti andare ai loro posti, attaccarsi agli strumenti come facevano 30 anni fa, è stata una cosa che sono dovuto andare in bagno, ha perché palpitato il cuore, è uscita pure la lacrima, se è per questo. Bene, allora io direi di proseguire, di andare avanti. Non so se vogliamo fare un intermezzo con una delle altre tracce che avevamo preparato, oppure volevamo andare con avanti con Leopoldo Mastelloni. Non è Leopoldo Mastelloni, magari vabbè, vogliamo ascoltare, vogliamo ascoltare Colonia Infame. Abbiamo parlato, sì, di Colonia Infame, abbiamo parlato. Hey, no, la volevo rimandare perché, vabbè, si modifica in diretta, si muovono le cose. No, perché volevo ricordare così, ricordo di Valerio Marchi. Ricordo di Valerio Marchi che, insomma, è stato il redattore di questa radio fino proprio a 19 anni fa, esattamente. 20 anni, sì, no, c'è la libreria qua sotto, insomma, che poi ha sopravvissuto per molti anni, ha vissuto per ancora molti anni. Poi, diciamo, come tutte le esperienze hanno un inizio e una fine, c'è stata già una ricorrenza, ricordo, di Valerio, venerdì 1 ottobre, cioè dopodomani, alla SNIA, l'eredità di Valerio, dalle 16, dibattito, cena sociale, DJ set. Insomma, ricordatevi anche questa data, questo appuntamento. Credo che anche sul sito della radio potete trovare delle informazioni e delle trasmissioni che abbiamo fatto su Valerio. Non so se abbiamo delle registrazioni della vecchia Allo Scader di Un'ora, dei relazionali che facciamo il sabato mattina in quel contesto, perché appunto sono trasmissioni ormai vecchie, più di 20 anni, e non credo che abbiamo un archivio di quella roba lì. Comunque sicuramente non sul sito, non sul web. Però, insomma, dai, Colonna Infame chiamano quella che era quella, la sottocultura di quegli anni, ecco, dai. E invece Pit 38 come proseguiamo? Beh, a questo punto l'unica persona a cui ho detto ti va di fare un coro è l'unico che all'inizio mi ha detto sì, va bene, però siccome ognuno faceva qualcos'altro non c'erano i cori, quindi alla fine abbiamo duettato sui ritornelli e parlo Ciola dei Blood 77, Gioventù Bruciata, che poi quando ci metti insieme noi siamo maestri giadi di cazzeggio, quindi sì, no, ci rimpalliamo, cioè è una cosa incredibile. Mi stupisco di quanto riesco a cazzeggiare insieme a Simone, e alla fine abbiamo fatto questo duetto che poi lui partecipa anche in però Simone un paio di a tutti gli effetti, perché lui gli piace proprio buttarsi in mezzo alle mischie, sì, diciamo, perché in realtà non è che ha incrociato così il percorso dei P38, ma non ha mai suonato ufficialmente con voi, no? No, abbiamo fatto un paio di benefit insieme, eh? sì, no, dico ufficialmente nella band, no, non c'è, però mai stato incrociati, in realtà, come è naturale che sia, insomma. In realtà quelli che stavano nella band l'abbiamo messi tutti da una parte e tutti gli altri sono spalmati nel che disco, che sono famosi amici, conoscenti, parenti, ospiti, compagni, ospiti, amici, fratelli, partigiani, esatto, cittadini, contadini, e qui ne ha più ne metta. Donne, è arrivato l'arrudino, e questo è un pezzo, anche se poi in realtà lui questo con la voce quale? MES è il numero 3, bene, meccanismo europeo di stabilità, e poi però lui con la voce ogni tanto durante il disco, visto che appunto non c'avevo nessuno che faceva i cori, fa altre sortite. Bella. Un saluto a Simone e mandiamo MES dei P38 Punk, dai. Frate sbagliate, si ripete face, the final curtain. My friend, I'll say it clean, I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I travel each and every highway and more, much more than this, I did it more. Vabbè, noi ci proviamo mentre parliamo sopra Nina Hagen. Gli staranno fischiando le orecchie. Comunque, se dovesse essere all'ascolto a Simone, non so se sapeva questa cosa, che gli avevamo comunicata. No, non gliel'avevo comunicata. Vabbè, però lui ogni tanto, cioè, qualche volta ha chiamato e qualche volta ascolta 25 O'Clock, quindi chissà, vediamo. Lanciamo nel vuoto st'appello invece di mandargli: Simone, chiamaci, perché vogliamo sentire pure la tua. Svegliano i giganti e non li puoi fermare. Preghiera operaia, discesa. disciplinato martellare nell'acciaio dell'industria, porge un passo militare. Canto delle macchine, tesoro più in mente, annuncia al mondo nuovo le idee del presidente. Canto delle macchine, tesoro più in mente, annuncia al mondo nuovo le idee del presidente. Lunga vita al presidente, lunga vita al presidente, lunga vita al presidente. Incendiano i suoi raggi, rovine ad occidente, nell'ordinato caos, unità di produzione, sostengono le masse, una rivoluzione. Il canto delle macchine, inesorabilmente, annuncia al mondo nuovo l'idea del presidente. Il canto delle macchine, inesorabilmente, annuncia al mondo nuovo l'idea del presidente. Lunga vita al presidente, lunga vita al presidente, lunga vita al presidente, lunga vita al presidente, lunga vita al presidente, lunga vita al presidente, lunga vita al presidente, lunga vita al presidente, lunga vita al presidente, lunga vita al presidente, lunga vita al presidente, lunga vita al presidente, lunga vita al presidente, lunga vita al presidente, lunga vita al presidente, lunga vita al presidente, lunga vita al presidente. E qui scatta d'obbligo una domanda sulla dottrina, cioè P38 punk e filosofia, dico, e invece dedichiamo, diciamo, una traccia intera a quelli che, insomma, no, ne parlavamo l'altro giorno al telefono, proprio sempre d'accordo, non sono andati benché avessero hanno fatto pure una guerra di confine. Certo, cioè, però diciamo che l'Unione Sovietica e la Cina, insomma, sì, la Cina popolare, ovviamente. Ma è andati d'accordo, diciamo che gli americani hanno fatto il miracolo, soprattutto con Trump, ma già hanno iniziato con Obama, di fare andare d'accordo russi e cinesi, che non erano mai andati d'accordo neanche quando i russi erano comunisti. Sì, ma non erano andati d'accordo nemmeno prima che quando c'era lo zar, cioè comunque erano per forza di cose due entità. Piuttosto... E invece il collasso dell'impero americano è riuscito a fare sto miracolo che probabilmente durerà finché dura il collasso dell'impero americano. E quindi abbiamo dedicato la quarta traccia, che si chiama Il mondo nuovo, che non è, insomma, proprio di questo pensavo in questi giorni, insomma, ragionavo in questi giorni anche su alcune esternazioni. Il sistema che funziona, poi potremmo anche passare tutta la notte a decidere se quanto è socialista, quanto è capitalista, quanto appunto potremmo passare, però funziona. Per citare, appunto, guarda, io come non si svende, nerd, non si svende neanche se non funziona. Invece no, invece questa volta funziona. È quello che funziona e produce il 6-7% di PIL che l'Occidente se lo scorda. Guarda, io leggevo sempre surreale leggere il Corriere della Sera, poi soprattutto finché non legalizzano le droghe uno legge il Corriere della Sera, e leggevo questo articolo a la bava alla bocca, veramente rabbioso, dove si sciorinavano tutta una serie di problemi dell'Europa che ci sono, crollo demografico, disoccupazione, reddito basso, certo, consumi interni crollati. No, ma io mi riferivo proprio però il bello è che l'articolo vede come un dramma il fatto che noi esportiamo alla Cina. Non c'è una virgola di autocritica sul fatto che negli ultimi 30 anni c'è stata la contrazione salariale, che io mi ricordo un video che fece Renzi quando era presidente del Consiglio, che solo per quel video andrebbe processato per alto tradimento e fucilato alla schiena, dove per invogliare gli investitori giochiamo. Anche perché, insomma, non vale una non vale un plotone d'esecuzione, costa. Dove per invitare gli investitori esteri, lui diceva venite in Italia, cioè il costo del lavoro più basso d'Europa, cioè abbiamo i salari da fame. Ora un governo se ne dovrebbe vergognare di questa cosa. Certo. Lui invece, finalmente abbiamo i salari da fame. È tutto contento come uno stronzo. C'ha la bavetta alla bocca, è veramente arrabbiato, per cui scusatelo se appunto ha un po' è ceduto nella sua prosa, però insomma è arrabbiato. Vabbè, francesismo. Il francese, sì. E in tutto questo articolo non c'era, cioè dice stronzi noi che esportiamo in Cina, dobbiamo fare l'esercito europeo, è questa la soluzione. Sì. E quindi, cioè, come è un cortocircuito ormai, cioè, mi sembra il catalogo del non senso. Ma guarda, io consiglio sempre la lettura di Gibbon, Declino e caduta dell'impero romano d'Occidente, dove lui parla del momento. Peraltro lo fai ogni puntata, eh. Sì, sì, ma c'è questo episodio che è proprio un trasferello ai giorni nostri. Roma viene saccheggiata dai goti di Alarico. Onorio sta a Ravenna, un senatore si precipita nella sala del trono e dice: maestà, Roma è morta. E lui dice: com'è possibile? Beccava fino a un momento fa dalle mie mani, riferendosi alla sua gallina preferita e si chiamava Roma. Siamo su sto livello, certo. Cioè non capiscono. Certo. Bene. Allora, P38 Punk, disco del trentennale, abbiamo passato la mezzanotte, quindi stiamo già al 30 di settembre, se non sbaglio. E 30 settembre. E tu mi dici, mi fai un segno, mi fai un segno con una mano completamente aperta e una mano che invece ha tre dita sollevate. Quindi passiamo all'ultimo ospite. Passiamo all'ultimo ospite, o vogliamo prima annunciarlo con qualcosa che possa introdurlo? Beh, allora, questo è un pezzo che alla fine avevo curato io, avevo in testa in tutt'altro modo, è venuto fuori in un altro modo, gira, il pezzo alla fine gira anche se non gira nel modo in cui volevo fa. E qui abbiamo un altro ospite che è Paolo Dabaglione, Christian Det Carillon del Dolore, a cui avevo sempre chiesto telefonandogli: ciao Paolo, stiamo facendo il disco di Tretà, vuoi fare i cori? Lui fa: no, ti faccio un assolo. Cazzo, nessuno ci è cascato su sta cosa dei cori. Sì, e lui non si è limitato ovviamente all'assolo poi alla fine. Beh, o siete riusciti a costringerlo a, diciamo, a rispettare il contratto, diciamo. Diciamo che era di buon umore quella sera. Ok. Allora vogliamo mandare prima Carillon del Dolore? Un attimo o no? Ce la, no, prima la traccia. Prima la traccia, se non rompiamo, diciamo, l'energia. Sì, la linea narrativa. Ok. Questa è Le Teste Pare. Le Teste Pare, traccia numero 8 dal disco che si chiama Il Mondo Nuovo. P38 Punk 2021, 30 anni. Il Mondo Nuovo. E quando parte così si va da capo. Frammenti di esigenza superano le convenzioni, ritualità immagine, il centro perde coesione, sporadici aggiornamenti, radio e televisione, culto della violenza e democratica repressione. voce, aggiornamenti, radio e televisione, culto della violenza e democratica repressione. Sono spinto al caos, pazzo ma infezione, il cacco che dilaga, invalida nazione. Sono spinto al caos, pozzo ma infezione, il cacco che dilaga, il male di una nazione. Sono spinto al caos, pozzo ma infezione, il cacco che dilaga, il male di una nazione. Sono spinto al caos, pozzo ma infezione, il cacco che dilaga, il male di una nazione. nostra leggenda. Così nasce la nostra leggenda della minuti dopo la mezzanotte, l'ottobre sta arrivando, ormai pure quello un altro classico. Stiamo arrivando pure noi. Stiamo arrivando pure noi, è il 30 settembre e trentennale, ormai, 30 settembre, trentennale, l'ottobre sta arrivando. Sta arrivando davvero? Sta arrivando davvero, e traccia di 2 anni fa. Però. Traccia sì, uscita come singolo in un momento molto particolare poi della mia vita, nella tua vita, la è anche era... storico, perché era 100 anni della rivoluzione. Sì, in realtà l'avevamo fatta nel 2017 e poi l'abbiamo registrata nel 2018 e cioè, ci sembrava brutto lasciarla come singolo. Cioè, il pezzo comunque calzava perfettamente nel disco e allora alla fine abbiamo deciso. E rispetto al singolo, cioè la registrazione che abbiamo mandato fino ad oggi e che sta pure qui in automatico, credo, comunque sta qui nel nostro archivio della radio, questa qui è stata anch'essa rimaneggiata, risuonata. Sulla voce. Va detto che qui il fonico ha fatto un lavoro che credo mi abbia dato la voce più bella che io mi sia mai sentito in 30 anni. Che non sospettavi nemmeno di avere. Manco io. Bene, va bene. Eppure canto sempre sotto la doccia. Ah, vedi. E quello penso che un giorno o l'altro ti verremo a registrare per che c'è il riverbero in bagno, esatto. Quindi sì. viene comunque a cappella, capito? Sempre. Allora, siamo arrivati, però credo che il disco non l'abbiamo ancora ascoltato tutto. No, c'è ancora la numero 5. Che vogliamo fare? Dicci te, quanto siamo cotti? Mandiamo no, la 5. Fatto 30. Facciamo 31. Facciamo 31. E quindi cosa mandiamo? Leopoldo Mastelloni. No. Che è l'unica ripresa dal vecchio disco. Questa sì, l'abbiamo risuonata completamente. Ma che è la 5? La 5. La 5, perfetto. Alla fine, riascoltandola come era registrata, non ci piaceva tanto. L'avremmo suonata in maniera diversa, allora abbiamo deciso di suonarla nel modo in cui ci piaceva. E quindi l'abbiamo ascoltato tutto? Sì, con la 5. Hai tenuto il conto, incredibile. Eh sì, più o meno. La prima abbiamo iniziato con la numero 1, la 2, la 3, la 4. Invecchiare c'ha qualche vantaggio. Sì. No, ma comunque io appunto. Tieni il conto perché poi te scordi le cose. Ormai a tutti gli effetti un redattore di utenti 5 o'clock quando c'è lui è una passeggiata la trasmissione. Certo che se vi ne mettessi Leopoldo Mastelloni. Non te lo metto Leopoldo Mastelloni. No. Allora, se non c'era il sì. Volevo dire, ricordiamo a tutte e a tutti che siete all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana laziale. P38 Punk credo che chiedano di sostenere Radio Onda Rossa, no? Porca miseria, sempre scanciate i soldi, aprite i borsellini, non fate i miragnosi. Quindi con questo invito siamo pronti, di il titolo e... Mozgo voi. Dedicato a chi resiste nel Donbass. Abbiamo sbagliato noi, vedi? Non ce l'avevamo pronta, però adesso lo facciamo subito. Mozgo voi. P38 Punk da capo. Sei minuti dopo la mezzanotte, 25 O'Clock P38 Punk. Allora, diciamo la conclusione, un po' quella che vogliamo dare di questa presentazione, è un po' quello pure che avete scritto, pensato voi, insomma, e che in qualche maniera abbiamo affrontato anche con Danilo, no? Il problema che ci si pone di dover a un certo punto risalire sul palco. E, insomma, chi proprio non ce la fa più, nel senso che proprio dice suona in qualsiasi condizione, con la gente seduta, con spazi aperti, insomma. Voi non avete resistete, insomma, in questo? No, noi abbiamo fatto il concerto proprio pelo prima che scoppiasse il casino. E è stato un grandissimo concerto, bellissimo. A dicembre, sì. E se dobbiamo farne uno per il trentennale, cioè, lo volete almeno uguale? Almeno uguale. Ok. Quindi, cioè, voglio vedere la gente che balla, che poga se ci riesce, perché ormai abbiamo pure un'età. voglio sentire il sudore, voglio sentire la fisicità, insomma. La fisicità. Non, quella magia che si... Siete coloro che pensano che il punk non si può fare, insomma, via Zoom. No, via Skype. Non sono neanche Ferretti che fa adesso i concerti unplugged, seduto. Vabbè, quello diciamo è una scelta collaterale, ma lasciamo perdere Ferretti. È la senilità. Lasciamolo fuori Ferretti. Però molti fanno l'uno e l'altro, nel senso continuano a calcare il punk, il palco con il pogo, e allo stesso tempo magari fanno la roba da solisti a chitarra acustica o con dei progetti paralleli, insomma. Non mi sento così di condannare questo tipo di scelta. No, io ce l'ho proprio con Ferretti. Sì, no, vabbè, Ferretti, ti ho detto lasciamolo fuori. Meglio non, se, così cada come un po' su Berlusconi, cada l'oblio, insomma. Ed è una cosa, tra l'altro, che a volergli bene, cioè l'oblio è quello che se ti permette di ricordartelo quando, esatto, era vivo, esatto, le cose buone che ha fatto. Sì, bravo. Vabbè, quindi, insomma, non abbiamo da dare date. O appuntamenti o... No, sicuramente faremo un concerto appena sarà possibile farlo. Ci saranno le condizioni. Appena un concerto vero, ecco. Cioè, nel momento in cui ci sarà la possibilità di fare un concerto vero, stiamo lì sul nastro di partenza. Va bene, allora noi aspettiamo questo momento. Come ci siamo voluti prendere il nostro tempo per fare un bel disco per il trentennale, vogliamo prenderci il tempo per fare un bel concerto. Lo dicevi all'inizio, i tempi sono quelli dei piani quinquennali, quindi, insomma, ci diamo, non sono gli obiettivi che si danno, ecco, le grandi aziende, le multinazionali oggi, che mai sono obiettivi a 3 giorni, capito? No, molto meglio l'acciaio della plastica. Molto meglio l'acciaio della plastica, è più durevole. Con queste parole di grande saggezza, io direi di andare. Meglio fare le cose bene piuttosto che farle fatte male. Anche questa perla di saggezza. Poche cose fatte bene, ma già sarebbe aggiungere. No, è meglio come l'hai detta te. Sì. Benissimo. È mia, Non è tua? Non cita, è... cita il citato. Cito Gian Patrizio Cioni. Grande saggezza. 30 minuti dopo la mezzanotte abbiamo presentato il lavoro del trentennale di P38 Punk. Aspettiamo una loro copia, quindi, qua in radio, per poterla consumare da questi lettori di CD. Quindi 06491750, il recapito telefonico della radio, www.ondarossa.info, il sito. Che altro dirvi, insomma, se non che venerdì c'è la cena sociale. C'è anche Leopoldo Mastelloni. Non c'è Leopoldo Mastelloni, non l'abbiamo invitato. Cena sociale di Radio Onda Rossa allo Strike per contribuire al finanziamento di questa radio. E a sto punto, buonanotte, cioè ce ne andiamo. Buonanotte. Dai, ce ne andiamo. Ciao. Quasi la sigla e bella, ci risentiamo mercoledì prossimo in studio Wendy Plutonium Baby, non so quanti saremo, non tantissimi, sempre per le note vicende, pure lì forse qualche telefonata, pure lì c'è una partecipazione di Simone Luccio nel disco dei Wendy, ti dicevo, come il prezzemolo. E dai, buonanotte a tutti, bella così. come back home. I grew up on the Lower East Side, where most of you probably fucking hang out still. La cucaracha. Not today. I'm not doing la cucaracha. I left my cucaracha at home tonight. You have to forgive me. But every time throughout the years, I noticed that I was always the ugliest motherfucker in the punk scene. But now it's 2007. I see a lot of you ugly motherfuckers like me out there. This song is for you. It's called Ugly Bastard. To Jake, he's trying to play guitar. So leave that kid alone here. Hey dude, I can barely fucking play guitar as it is. So just give me a little bit of space. This goes to everybody who's been down in the tombs before. I spent a few nights down downtown in jail. This song is called Criminal Class. I want you to sing it. If you don't have fucking lyrics, okay? Criminal Club! That's what you make me have to be. Criminal Club, no chance to be for me. What you make me have to be. We'll be right back.

49 minuti dopo la mezzanotte ci siamo, tornato, è tornato 25 o'clock. A spezzare le notti nell'urbe. A cospargere di sale. Di pepe, il sapore della notte lasciata trascorrere ascoltando la radio. Ci hanno accompagnato in questo lungo finale Casualties Live. Da New York, street punk, onda rossa, dai, noi vi lasciamo così, vi ricordiamo di nuovo l'appello per la sottoscrizione della radio venerdì prossimo, 1° novembre, cena sociale di Radio Onda Rossa Strike. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo, l'abbiamo già accennato prima, con Plutonio Baby e Wendy. This next song. Per presentare il concerto del 16 alla SNIA. Dai a tutti e a tutte, bella così, noi ce ne andiamo sotto la luna comunista. Eri in Ecuador. Yeah.